Incontri di Gianfranco Fabi. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Ecco, con queste note della samba che si distinguono già dal primo momento iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio a voi, buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio ad Antonio Calabrò. E buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Potremmo dire, forse se me lo consentite, come si usava una volta, siamo molto contenti di avere oggi con noi Antonio Calabrò, un collega con cui personalmente ho lavorato felicemente per alcuni anni, è stato con me vice direttore del Sole 24 Ore, è stato anche direttore editoriale del Sole 24 Ore, adesso è responsabile del settore cultura della Pirelli e direttore della Fondazione Pirelli. Ma abbiamo cominciato col Brasile perché tra le ultime iniziative di Calabrò c'è anche qualcosa che riguarda il Brasile, un libro. Quale? Il libro si chiama Bandeirantes, il Brasile alla conquista dell'economia mondiale, ed è scritto con mio figlio. Io vado spesso in Brasile per motivi di lavoro, Pirelli in Brasile fa un terzo del suo fatturato, Carlo vive in Brasile da più di 3 anni, ha lavorato prima per Boston Consulting, adesso fa il capo delle strategie della Banco Votorantim, una delle più grandi banche brasiliane. E allora abbiamo messo insieme due sguardi diversi, due competenze diverse, due sensibilità diverse per storia e per età, e abbiamo provato a raccontare l'evoluzione di un paese che è conosciuto per alcuni stereotipi: la musica, il calcio, le ragazze, il carnevale, la disperazione delle favelas, e che invece dentro ha degli aspetti estremamente dinamici, una grande economia in una grande democrazia. Beh, è il primo paese dei famosi BRIC, dei nuovi paesi emergenti, che ormai sono già emersi, infatti sono paesi che sono ormai forse non delle grandi potenze, ma dei paesi che sicuramente fanno parte dell'elite economica mondiale. Ecco, quali sono le caratteristiche economiche che proprio del Brasile, peraltro in cui l'Italia, Pirelli, ma anche altre imprese hanno grandi interessi economici, commerciali e industriali. Guarda Gianfranco, il Brasile dei BRIC, Brasile, Russia, India, Cina, o BRICS col Sudafrica, certo. E poi c'è un'altra dimensione che ha appena coniato Goldman Sachs, l'inventrice della formula BRICS, mettendoci insieme l'Indonesia, la Turchia e altri paesi molto dinamici. Dicevo, dei paesi BRIC, il Brasile è quello che ci somiglia di più, europeo, profondamente europeo, con una storia legata non soltanto alla cultura formale ma anche alla cultura giuridica europea, e però calato nella realtà americana. Dicevo poco fa, un paese in espansione economica, il 7-6% di crescita del prodotto interno lordo nel 2010, il 5% quest'anno, previsioni il 5% per i prossimi anni, e questa è una caratteristica tutta brasiliana, una democrazia vera, bella, robusta, solida, senza problemi, in cui si cambia presidente della Repubblica, esce Lula, entra Dilma, e i mercati finanziari non si agitano, con una forte borsa, belle imprese manifatturiere, insomma un'economia che, molto per sommi capi, ricorda la vivacità e la velocità degli anni 50 in Europa. Quindi è un paese in cui, nonostante il passato dell'America Latina, che era un continente in cui i colpi di Stato avvenivano, non dico tutti gli anni, ma tutti i mesi, e quindi un paese di instabilità, un paese di militari, un continente in cui era comune il fatto di passare da un regime all'altro, adesso possiamo dire che il Brasile può essere anche un faro per tutta l'America Latina. Abbiamo anche forse le altre azioni in modo diverso, comunque stanno avvicinandosi a modelli di democrazia compiuta? Guarda, l'ultimo vertice dei paesi sudamericani introduce quella che loro chiamano la clausola democratica, dicendo mai più dittatura in America Latina. Sono presenti tutti, non c'è il Venezuela, un qualche imbarazzo, non c'è Cuba. Gli altri paesi del Sud America sono alcune più solide, il Brasile e il Cile, alcune meno solide, più agitate, delle democrazie, talvolta incompiute, ma comunque stabilizzate. Gli anni 80 terribili delle dittature militari sono passate, ma è passata anche la stagione in cui l'America Latina e il Brasile erano considerati una sorta di cortile di casa degli Stati Uniti d'America. Mettiamola così, lo raccontiamo nel libro Carlo e io. negli anni 80 e poi negli anni 90, soprattutto negli anni 90, gli Stati Uniti si sono distratti dal Sud America, lo hanno considerato acquisito, hanno guardato il Medio Oriente. Ma in quegli anni 90, finite le dittature militari, quei paesi si sono affrancati e, approfittando, se mi passi il termine, della distrazione degli Stati Uniti, hanno costruito un modello di crescita dialogante con gli Stati Uniti, ma sicuramente non subalterno. E questo è un dato politico importante perché permette, come chiamarli, gli equilibri multipolari, certo, che hanno in Sud America un punto di riferimento importante. Ecco, non possiamo parlare solo di Brasile, non dobbiamo parlare solo di Brasile, perché come abitudine di questa trasmissione è dedicata appunto a un incontro con una persona, però prima di parlare di altro, ma di cose altrettanto importanti, ricordiamo questo libro Bandeirantes di Antonio e Carlo Calabrò, editori La Terza, è ovviamente un libro in cui si spiega soprattutto come mai è importante tenere presente la realtà brasiliana anche per l'economia italiana. Dicevi prima, abbastanza rapidamente, possiamo magari approfondirlo, cosa può insegnare il Brasile all'Italia? Il Brasile può insegnare all'Italia che c'è un grande mercato giovane, dinamico, intraprendente, che ha fame di crescita e grande volontà di costruirsi sviluppo. Non soltanto l'Italia, Gianfranco, ma un po' tutta l'Europa è un posto un po' vecchio, un po' pigro, anche un po' tanto benestante, sì, come se fosse seduto. Un po' appagato, indubbiamente. Ecco, un po' tanto appagato. Invece i BRIC, il Brasile, ma il Cile, la Colombia, l'Argentina, sono paesi che hanno fame. Non fame di cibo, fame di trasformazioni. Ecco, ci possono insegnare una straordinaria vitalità. Ecco, tuo figlio che cosa ha avuto come spinta? Che cosa gli hai detto quando ti ha detto oppure gli hai proposto di andare in Brasile? Carlo era stato trasferito in Brasile da Boston Consulting Group per un anno. Doveva partire da Parigi, stare un anno a San Paolo, rientrare a Parigi. Dopo 8-9 mesi di San Paolo ha detto ai francesi: non torno, rimango in Brasile. Quando gli ho chiesto perché, mi ha detto: papà, tu cosa avresti voluto raccontare? L'Italia degli anni 50 o l'Italia di adesso? Ho detto: quella degli anni 50, naturalmente. Ecco perché ho resto in Brasile. Ecco, allora raccontiamo un po', Antonio Calabrò, siciliano di nascita, siciliano anche per la prima parte della tua attività professionale. Cosa ricordi di quegli anni? Guarda, ho cominciato a fare il giornalista ragazzino. Ho messo piede per la prima volta all'Ora, che era un quotidiano del pomeriggio, molto impegnato, molto battagliero, molto dinamico, più o meno 18 anni. Ecco, non erano gli anni 50, erano già gli anni 70. Erano già gli anni. Mi ho messo piede all'Ora nel 68, io sono del 50. E ci ho lavorato fino alla metà degli anni 80, facendo tutta la stagione prima delle speranze di sviluppo siciliano e poi della guerra di mafia. Mi ricordo di Palermo, una città divisa tra una violenza mafiosa e una presenza di malgoverno durissime, le due cose stavano insieme, ma anche una città colta, intelligente, dinamica, brillante, in cui c'erano editori bravi, Sellerio, musicisti, intellettuali, professori universitari che provavano da minoranza a fare minimo di sintesi per cercare di cambiarla quella città. Ecco, e proprio da Sellerio tu hai scritto e pubblicato un libro dedicato a Palermo e alla Sicilia, che si chiama Cuore di Cactus. Ne è stata ricavata anche un'edizione teatrale con un bravissimo attore, Fausto Russo Alesi. Cuore di Cactus ha appena vinto il premio Mondello ed è un diario in pubblico sul rapporto d'amore e di odio con quella città e con quell'isola e sulla necessità di avere uno sguardo distante per poter capire i fenomeni. Questo riguarda la Sicilia, ma riguarda un po' in generale la realtà. Sta cambiando la Sicilia rispetto agli anni 80, quelli che abbiamo ricordato prima? Sì, per fortuna sì. Ci torno spesso e spesso anche volentieri. Beh, in Brasile si passa dalla Sicilia di solito. Volendo, si allunga un po', ma si passa sud. Il Brasile è sud, la Sicilia è sud. Per noi meridionali alcuni colori, alcuni ritmi, alcune caratteristiche, alcuni gesti, certo, alcuni movimenti delle mani sono in Brasile assolutamente usuali. Insomma, io mi ci sento un po' di casa. Tu dicevi la Sicilia è cambiata, sì. Non c'è più quella violenza terribile agli anni Ottanta, c'è una nuova generazione che ha voglia di rinnovamento, ci sono degli imprenditori che hanno rotto nettamente con le complicità mafiose, insomma c'è un filo di speranza possibile. Incontri. quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada. Con queste note di samba riprendiamo il nostro incontro con Antonio Calabrò. Nella prima parte abbiamo parlato di Brasile, e samba è appunto uno dei simboli del Brasile. Brasile perché Calabrò ha appena scritto con il figlio Carlo il libro Bandeira Intens, il Brasile alla conquista dell'economia mondiale. Ma poi abbiamo parlato di Sicilia. La Sicilia è il luogo di nascita, il luogo in cui Calabrò ha fatto i primi passi come giornalista. Ricordiamo, è stato vice direttore del Sole 24 Ore, adesso è responsabile del settore cultura del gruppo Pirelli e direttore della Fondazione Pirelli. Però dalla Sicilia poi, Calabrò, sei venuto a Milano. Come mai? Perché a metà degli anni Ottanta ero stanco di raccontare una realtà in bianco e nero. I morti, la violenza, le prepotenze, e volevo provare a misurarmi con i grigi. Ora il grigio è un colore straordinario. Dentro c'ha infinite sfumature, consente gradazioni. Quell'isola drammatica non me lo consentiva ed ero stanco di raccontare i morti. E sono venuto a Milano, la città più diversa da Palermo. Assolutamente. E ho trovato una Milano molto meridionale, per fortuna, nel senso di molto aperta, molto accogliente, molto piena di meridionali, ospitale e capace di una cosa che me l'ha resa subito molto amata, e cioè una città capace, nonostante tutto, di riconoscere il merito, cioè di stabilire relazioni, talvolta anche di convenienza, però chiare, trasparenti e fondate sul fatto che tu non sei figlio di, sai fare una cosa. E questo è un punto importante che differenzia Milano da moltissime altre realtà di questo paese. È sì, ancora un suo pezzetto di eccellenza. Milano, soprattutto negli anni della crescita, gli anni Ottanta, crescita contrassegnata anche da crisi, da situazioni alterne, anni anche difficili, anni del terrorismo, però anni in cui c'era una passione anche sotto il profilo economico, e c'era una prospettiva di crescita complessiva dell'economia. In quest'ambito era una realtà in cui, appunto, dimensioni come quella del Sole 24 Ore, in cui sei entrato alla fine degli anni 90. Sono entrato nel 97 e considero quella del Sole, e lo dico senza timore e piaggeria, da questa radio, in cui ho fatto un'esperienza molto amata, molto sentita, avvertita con grande passione. Questa radio è nata quando tutti e due eravamo Sole 24 Ore, e questa radio era molto di più di un giocattolo, era la riprova di come si potesse fare informazione e comunicazione di livello, con rigore, con serietà e con riscontro di pubblico. Ecco, e qualcuno dei nostri ascoltatori probabilmente ricorderà la voce di Antonio Calabrò, perché appunto in quegli anni, nei primi anni di Radio 24, nel 99 e nel 2000, avevi una rubrica che si chiamava Tra le righe, in cui parlavi di libri. Parlavo di libri la domenica in tarda mattinata, ed era un appuntamento che aveva un suo piccolo pubblico, e appunto dimostrava come si potesse fare cultura di qualità e di massa. I due termini non sono un ossimoro, non sono una contraddizione. Ecco, in Italia c'è bisogno di cultura economica? Sicuramente sì. Noi siamo un paese che è cresciuto nel corso della sua storia, la storia della Repubblica, segnato da culture che avevano l'economia in dispetto, mettiamola così, e con scarse competenze di mercato, il che peraltro ha permesso delle alterazioni anche dei mercati finanziari in mano a personaggi, dei veri e propri avventurieri, ma citiamo Sindona, citiamo Calvi, che si sono fatti forti di un'economia chiusa nel piccolo di alcuni salotti, e nel loro caso di alcune mafie, e estranea rispetto alla coscienza e alla competenza comune. Così c'era una buona borsa delle grandi banche, penso alla Comit, penso a Mediobanca, dei grandi imprenditori, una scarsa competenza diffusa e dunque un terreno per incursioni di avventurieri, cioè, che per fortuna sono stati stoppati. Sono stati stoppati anche dal mercato, perché poi sono crollati. A un certo punto è cresciuta la cultura di mercato, certo. Ecco, in questo senso volevo ricordare un altro libro di Antonio Calabrò, che è Orgoglio Industriale, del 2009, proprio uscito nel pieno della crisi, un libro molto in controtendenza rispetto alla cultura del declino, che purtroppo ogni tanto tenta di avere il sopravvento nel linguaggio comune. Il nostro paese è visto come un paese ormai rassegnato. Invece questo libro, proprio dal titolo, Orgoglio Industriale, cosa voleva rappresentare? È esattamente questo, Gianfranco. Io sono stato alcuni anni in questo giornale, in questo gruppo, il Sole 24 Ore. Ho imparato a conoscere la realtà imprenditoriale italiana, piccole, medie, imprese d'eccellenza, grandi imprese che si erano internazionalizzate. E poi dopo, per esperienza, ho diretto per 4 anni un'agenzia di stampa, a Picom, l'ho fatta crescere, e poi in Pirelli, insomma ho conosciuto un mondo economico, un mondo industriale, le cui attività non quadravano con l'idea del declino. Insomma, la realtà che vedevo e conoscevo non c'entrava niente col declino. Allora, il declino era una specie di estrapolazione molto intellettuale e molto carica di polemiche di fronte a una realtà che andava da un'altra parte. Mi sembrava che il mio mestiere di cronista, io poi questo sono rimasto alla fine un cronista, mi imponesse di raccontare la realtà industriale italiana com'era, cioè difficile, in crisi, piccola, con mille difficoltà, ma non morta, non certo. Declinante, da qui è nato il titolo. Cioè una realtà fatta di tante persone che hanno tanta passione, tanto spirito imprenditoriale, tanta capacità e in fondo quell'innovazione che nasce anche dall'intuizione, da avere geneticamente la capacità di affrontare i problemi, di risolvere con soluzioni nuove dei problemi nuovi. Esattamente, allora in questo paese si fa scarso investimento in ricerca e innovazione, d'accordo, ma c'è nella pratica quotidiana delle imprese più innovazione di quanto noi non sappiamo. C'è, se mi passi il termine, una cultura politecnica diffusa. Cultura politecnica è il nome di un progetto che abbiamo cominciato a elaborare in comitato di presidenza di Assolombarda, diffusa e importante, che tiene in piedi realtà industriali che fanno sì che l'Italia continui a essere il secondo paese manifatturiero europeo dopo la Germania. Da questo punto di vista un paese molto vitale e dinamico. L'industria va valutata e rivalutata per cercare di rispondere anche alle conseguenze della deriva finanziaria, il fare soldi per mezzo ai soldi, che sta all'origine della grande crisi. Ecco, in questa prospettiva cultura e tecnologia, cultura e ricerca possono andare tranquillamente, anzi devono andare a braccetto. Ti dico di più, non devono andare a braccetto, sono la stessa cosa. Non mi ha mai convinto, e le esperienze fatte in questo gruppo e poi altrove, in Pirelli, mi hanno dato conferma, che ci sia la cultura da una parte e l'impresa dall'altra. Il sapere e il fare. Noi siamo un paese del saper fare. Allora, cultura e industria sono pezzi dello stesso ragionamento che si vanno in continuazione incrociando. C'è un libro molto bello di un sociologo americano che si chiama Richard Sennett, il titolo è L'uomo artigiano. E dentro questo bellissimo saggio di Sennett, pubblicato proprio mentre scoppiava la crisi e che prevedeva che cosa sarebbe successo, Sennett dice: bisogna rivalutare le competenze, ci sono competenze che stanno nelle mani, nel saper fare. E le mani sono cultura del fare. L'industria italiana non ha, come dire, la cultura sofisticata della grande letteratura, ma non è quello il suo mestiere. La cultura politecnica è esattamente questa dimensione, sapere fare bene le cose. Il design, che cos'è? Se non cultura dentro un processo industriale. Senso del bello, senso dell'utile e se mi permetti anche senso dell'equilibrio del giusto. Tra etica e estetica c'è un rapporto. Anche responsabilità sociale in fondo di una grande impresa. Ecco, fare cultura in una grande impresa cosa vuol dire? Vuol dire parlare con molti interlocutori, i tuoi dipendenti, le persone delle città in cui hai costruito gli stabilimenti, gli attori istituzionali e promuovere, legandolo al processo produttivo, un insieme di attività culturali. Ti faccio un esempio per non essere vago. Fabbrica. Settimo Torinese, noi abbiamo costruito una fabbrica nuova con una struttura di servizi progettata da Renzo Piano, molto bella. L'anno scorso il vecchio stabilimento che abbiamo chiuso per aprire il nuovo ha ospitato un concerto di musica classica. Perché io sono convinto che tra la musica colta e il lavoro ci sia possibile un rapporto, certo. La storia europea lo racconta. Quest'anno ripetiamo l'esperimento, un concerto per orchestra nella nuova fabbrica Pirelli a Settimo Torinese con un programma tutto Novecento. Il Novecento è il secolo dell'industria, noi continuiamo la musica classica nel posto di un'industria che cambia. O anche, per farti un altro esempio veloce, abbiamo raccolto durante la trasformazione di Settimo una serie di testimonianze di operai, tecnici, ingegneri. Ne faremo un libro che uscirà per la Terza in autunno, ma ne faremo uno spettacolo Le voci del lavoro sul palcoscenico al Piccolo Teatro di Milano. Ecco, secondo me fare cultura in una grande impresa è anche agevolare processi del genere. Sì, e anche far capire in fondo che l'industria non è un male necessario, è qualcosa di estremamente utile complessivamente alla crescita di un paese. Cioè l'Italia, ricordavi prima, è il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania, e molto spesso si ha la percezione, almeno, che l'industria sia vissuta come qualcosa che inquina, che dà fastidio, che comunque ci vuole perché produce ricchezza, però se fosse un po' meno, forse sarebbe anche meglio. Ecco, questa cultura, questo, diciamo, rispetto, ma anche questa capacità di capire l'importanza dell'industria nel produrre ricchezza e attraverso la ricchezza produrre la possibilità di risolvere dei problemi, è qualcosa che andrebbe veramente fatta maturare all'interno della società italiana. Sicuramente sì, io credo che ci sia una responsabilità degli imprenditori industriali nel raccontarsi di più e meglio, è una responsabilità della cultura senso tradizionale nel capire questi processi. Ora industria è ricerca, innovazione, tecnologia, giovani, conflitti, relazioni industriali talvolta faticose che poi si compongono, mercati e tante cose messe insieme. È difficile trovare un luogo che metta insieme tanti aspetti come un'industria: laboratori, logistica, produzione, commercio, comunicazione, pubblicità, sindacato, rapporti. E in fondo crescita, civiltà delle macchine, ecco, diceva civiltà, un vecchio, ma civiltà soprattutto delle, esatto, macchine e delle persone che restano poi fondamentali. Esatto. Grazie, concludiamo qui il nostro incontro con Antonio Calabrò, che ci ha fatto compagnia oltre ad essere stato mio collega di lavoro per anni al Sole 24 Ore, oggi parlando di cultura, parlando di impresa, parlando in fondo di ottimismo, con ottimismo alle nostre prospettive, perché è un paese fatto appunto dagli italiani che sanno fare tante cose ma devono avere molta più fiducia in se stessi, mi sembra. Esatto. Grazie a Calabrò, grazie a Mauro De Angeli in regia, da Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, buona domenica e alla prossima volta.